Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. La statale per New York è interamente bloccata dal George Washington Bridge ed è in pratica un immenso parcheggio. La polizia sta pensando a una chiusura straordinaria dell'intera tratta. Che? Sai quegli hippie che cosa combineranno? Questa cosa non si farà! Se viene a piovere diventa tutto un po' elettrico. Non vorremmo friggere troppi spettatori. La nuova commedia del regista premio Oscar, Ang Lee. Ang Lee ne parla, ne hanno parlato in tanti. Ormai c'è una cinematografia dedicata, una specie di sottogenere, no? Rivisitare Woodstock, rivisitare la cultura hippie, riparlare di come eravamo, come erano, come si è stati a fine Novecento, quando le culture giovanili hanno per un momento davvero preso il sopravvento anche nelle cronache, con la loro creatività, con la loro trasgressione, con la loro capacità di essere diversi, propositivi e sorprendenti, e il resto del mondo stava a guardare. Adesso siamo in un'altra epoca, adesso siamo negli anni 10 del XXI secolo, dove cinismo, scetticismo magari hanno a loro volta preso il controllo delle operazioni, però viene ancora voglia di capire come si è stati, no? Come si è stati in fondo pochi anni fa, ma anche tanti anni fa, no? Pensate, John Lennon è morto 30 anni fa, Jimi Hendrix quasi 40 anni fa. Anche la cultura pop ormai ha una sua profondità temporale che merita o comunque necessita di risalire un po' all'indietro, mettere in ordine le cose. Pensate solo a come si raccontano a dei ragazzini, a dei teenagers di oggi, queste storie che ci sembrano ancora all'imperfetto, no? E non al passato remoto. Per esempio la cultura hippie. Alla cultura hippie dedica una cover story molto interessante il grande settimanale americano Time, e cerca di spiegare che cos'erano gli hippie, come respingevano le istituzioni, come criticavano i valori della borghesia, il pacifismo, la contrarietà alle armi nucleari, naturalmente alla guerra, al Vietnam, le filosofie orientali abbracciate come il nuovo verbo, la libertà sessuale e la scelta vegetariana, le prime tracce di ambientalismo, l'uso di droghe psichedeliche per aprire la mente, come si diceva all'epoca, espandere la coscienza, e poi anche tracce di pre-globalizzazione che forse riviste da oggi invece magari sono un po' più inquietanti. La parola chiave era alternativa, e come si fa a rivivere tutto ciò se non solo leggendo libri, andando a vedere in fondo ciò che resta di tutto ciò? Esiste una mappa di eventi su cui Time si concentra, che noi vogliamo rapidamente ripercorrere per riassaporare, però attenzione perché il sapore di polvere è forte, il gusto del passato può essere anche fastidioso, per riassaporare questi momenti, questo modo di vita, questo stile di vita. Uno è naturalmente l'annuale raduno che si svolge a Woodstock, nei luoghi che furono del mega concerto, dove se ne sono svolti almeno un altro paio di mega concerti del genere, ma ce ne sono molti altri appuntamenti. Uno è appena andato in scena. Se non ci siete andati dovete aspettare quasi un anno, ma a Stonehenge, no, nel luogo deputato dell'ippismo in chiave inglese, si è svolto un altro solstizio d'estate. Se non ci siete andati ma volete capire che si trattava, YouTube vi offre documentazione piena. Se ne trae che c'era tanta gente, se ne trae che faceva molto freddo perché c'erano tutti le giacche a vento addosso, se ne trae che c'erano gli hippie e hanno 18 o 20 anni ancora adesso, che continuano a suonare i tamburi e che vige questa strana atmosfera dove non succede niente ma succede tutto. La chiave sembra essere completamente, no, di comunità spirituale. Altri appuntamenti. Bienvenue à la ville de Black Rock, située dans le désert aride du Nevada. Questo è un documentario francese che ci aiuta a capire invece che cos'è il Burning Man, l'uomo che brucia, che oggi è considerata la più importante manifestazione hippie del mondo. È un festival, è un raduno, il concetto di raduno è così strettamente interconnesso alla logica della filosofia hippie, che si svolge nel deserto del Nevada una volta l'anno, dura una settimana, bisogna portarsi tutto ciò che ti serve e non lasciare niente indietro, perché i raduni hippie adesso vogliono bisogna essere soprattutto ambientalisti, ecologici, puliti, lì avviene veramente di tutto. Anche qua non posso dirvi altro che documentatevi in video, capirete, l'atmosfera è assolutamente particolare, perché la regola è la bizzarria, e non vorrei che, un po' turisticamente parlando, oggi lo stato mentale hippie, no, si sia un po' travasato, soprattutto in stranezza e stravaganza. Esiste poi un altro appuntamento della cultura hippie, per ciò che ne resta, per ciò che può essere vissuto oggi, che ancora va in scena, e si chiama Giorno della Terra, no? L'Earth Day. Si è tenuto 2 o 3 mesi fa in tutto il mondo, avrà un nuovo appuntamento all'inizio della prossima primavera. È il modo in cui l'hippismo oggi viene coniugato. Che cosa è diventato? È diventato in realtà una forma estremamente libertaria, se vogliamo dire creativa, dell'ambientalismo, dell'ecologismo, e su questo si concentra oggi, e questo celebra in questi giorni. Restano degli interrogativi, no? Dove è finito tutto quello che di è creativo e di artistico, in un certo senso, si legava all'idea degli hippie? Ma per questo bisognerebbe risalire al XX secolo e, come dicevamo prima, rileggere i libri. Ricordatevi che hippie viene da hipster, no? Gli hipster, quelli della Big Generation, quando la poesia era tutto. Anni 10. Parole. Well, I wish I was a cat swimming in a deep blue sea. I would have all you good looking women. Questa è Rolling Stone di Muddy Waters, canzone che, come dire, preveggente più di così non poteva essere, dette il nome a una band che peraltro dobbiamo parlare al presente, perché è ancora in circolazione nonostante la preoccupante età dei suoi componenti, e dette il nome a un quindicinale americano, rivista delle riviste, rivista generazionale, manifesto, identificazione generazionale, semmai ce n'è una, per i baby boomers d'oltreoceano e non solo, no? Celebrata in lungo e in largo. C'è un film bellissimo, si chiama Almost Famous, di Cameron Crowe, che è interamente dedicata alla ideologia, al modo di vita, a ciò che voleva dire essere un giornalista di Rolling Stone e tutto quello che succedeva in quella redazione. Poi c'è stato un lungo tramonto per la redazione di Rolling Stone, anche dal punto di vista anagrafico, diventavano vecchie, forse i ricambi non erano altrettanto bravi, alcune bandiere di Rolling Stone passavano a miglior vita, una per tutte, il grande gonzo journalist, no? Hunter Thompson. Poi, improvvisamente, in questi ultimi giorni, la rinascita, la ripartenza, il ritorno agli antichi splendori, grazie a un articolo, a un generale e a un presidente. Come saprete, l'articolo scritto da Michael Hastings su Rolling Stone, dedicato al runaway general McChrystal, è quello che ha causato le dimissioni del capo in testa delle operazioni militari americane in Afghanistan, ha provocato l'attacco di nervi, di rabbia di tutto lo staff della Casa Bianca, Barack Obama in testa, perché su Rolling Stone, guarda caso, un generale che poi era un pezzo d'acciaio, forgiato nel metallo duro, ma parlando proprio a Rolling Stone, ha detto delle cose che mai da un generale ci si attenderebbe di ascoltare. Tra l'altro, su internet è disponibile l'intero articolo di Hastings. Si viene a sapere che non vuole andare a mangiare con i militari francesi perché quell'appuntamento è un po' gay, secondo lui. Si viene a sapere che Obama è uno che non ci capisce quasi nulla di Afghanistan e che dovrebbe lasciar perdere, che la guerra sta andando male, le cose non vengono gestite con la debita professionalità, insomma tutto ciò che ha portato all'abbandono di McChrystal e al subentro di Petraeus. Naturalmente gli interrogativi restano. Perché Rolling Stone? Resta però altrettanto solida, no, in questo momento, almeno per qualche mese, la luce brillante di questo di questa grande rivista americana, che è tornata a significare qualcosa. Si stava ponendo degli interrogativi Rolling Stone attorno alla sua permanenza al presente, no? Era solo una roba per nostalgici. No, fa ancora cadere i generali. I am measured against the rabbit books to a degree, because people really loved that character. They came to love him. Some did, not everybody, but... John Updike è un anno che se n'è andato, che è passato a miglior vita, all'età di 76 anni, il probabilmente più amato e più popolare romanziere americano, l'autore, il creatore di quel personaggio Rabbit, su cui abbiamo consumato, abbiamo letto e abbiamo sognato in tanti. E come tradizione del mondo accademico, del mondo letterario e poi del mix tra i due in oltreoceano, sta saltando fuori l'archivio di John Updike e naturalmente tutta l'articolistica che lo annuncia le prime esplorazioni, le prime occhiate che si danno dentro i cassetti di John Updike. E tutto questo a cosa serve, soprattutto per i cultori del grande scrittore americano? Serve a sentirsi un po' più vicini, un po' più intimi, un po' più in confidenza e in fondo un po' più a vista, no, dei segreti di questo scrittore che era così riservato, che confezionava, si raccontava in tempi rapidissimi i suoi romanzi e poi tornava a condurre una vita assolutamente privatissima, impenetrabile, non se ne sapeva nulla. C'era un senso anche un po' di spaesamento, no, leggendo Updike. Si capiva che era bravo, che i suoi romanzi erano perfetti, ma chi c'era veramente dietro invece non era chiaro, chi fosse la mente, il cervello che partoriva tutto ciò. Ora invece l'accesso a questi archivi, che erano di vitale importanza per Updike, naturalmente un fissato, un ossessionato dai particolari, dalla correttezza delle sue descrizioni e quindi un accumulatore di notizie, un commissionatore di ricerche di ogni genere, c'era uno staff di persone che lavorava con lui, è a portata di mano. Si capisce come, si vede lo scheletrato, no, della sua narrativa e si conosce anche un po' la sofferenza creativa di Updike. Si capisce che scriveva e riscriveva quel famoso attacco, no, la prima paginetta di Rabbit at Rest, l'ultimo romanzo della serie di Rabbit che abbiamo letto e riletto per lo splendore letterario che letteralmente ne traspira, no, in quell'aeroporto della Florida gelido, dove c'è già all'inizio del libro un senso di morte, un senso di fine del personaggio. Beh, non è che gli era uscito come voleva la leggenda in una mattinata tra un caffè americano e l'altro, ci aveva lavorato un sacco. Ecco qui tutte le versioni della scrittura, riscrittura, ristesura di quel attacco fino al capolavoro. Adesso naturalmente di tutto ciò usciranno varie versioni per specialisti ma anche per semplicemente amatori, e finalmente anche di questo scrittore che tanto abbiamo amato, come dire, avremo un approccio più ravvicinato, più intimo, e lo sentiremo ancora un po' più amico di noi tutti. Family has never ever had an illness. You're right. And anybody, you know what, Kathy, you are so right. No, no, no. Oh, they couldn't pay for it. Let me just. Questo è il matto di successo dei media americani. Si chiama Glenn Beck. Fa televisione, fa radio, scrive, fa qualsiasi cosa che serva a comunicare. Fa miliardi su tutto ciò. È ormai un vero e proprio impero ambulante della comunicazione, della provocazione. Glenn Beck, oltre a imperversare su Fox News, sulle sue trasmissioni radiofoniche, i suoi talk show, sotto sentivate che stava prendendo in giro una signora che aveva telefonato dicendo: ma perché non difendi la riforma della sanità? E lui diceva: ma che difendere, qui si sta meglio che in qualsiasi altro parte del mondo. E poi partiva con un delirio di male parole, la malcapitata veniva ricacciata indietro. Ha pubblicato un romanzo, il nostro Glenn Beck. Scrive, non so quando lavora, non so se poi è lui che veramente fa tutte queste cose. Di fatto ha una produzione strabiliante di libri, ne sforna un paio l'anno. Adesso sforna un romanzo di azione che si chiama The Overton Window, che è già stato classificato dalla critica americana come il capolavoro del trash applicato al presente, applicato alla descrizione della società americana, applicato soprattutto a delle cose su cui gli americani sono piuttosto sensibili, ovvero la sicurezza nazionale nelle sue varie declinazioni, nella fattispecie per quello che riguarda le milizie, tutta la creazione e di queste organizzazioni spontanee, vagamente sotterranee, vagamente segrete, che si danno convegno e forma nell'intenzione di difendere che cosa? La Costituzione, i diritti, l'individualismo degli americani, ma in certi casi andando ben oltre e mettendo le basi e le radici per guai molto molto grossi. Oklahoma City resta un tragico esempio di tutto ciò. Ebbene, all'interno di una di queste milizie si svolge questo questo romanzo, che è tutto dalla parte della milizia stessa, per cui può essere una lettura istruttiva. Lui racconta le gesta di questi Founders Keepers, come li chiama, una milizia appunto che è anti-abortista, anti-tutto, anti-governo centrale soprattutto, ma lo fa in modo, a modo suo poetico e anche travolgente, perché poi Glenn Beck sa come si fa. Naturalmente la critica americana si è molto preoccupata, perché c'è il rischio che con tutti i commuter, no, i pendolari che ci sono in giro, un libro del genere abbia successo e venga molto letto. Fa da pandana questo libro un'altra segnalazione sull'ambito fiction trash di successo, che però viene dall'Inghilterra. Si chiama Annexed ed è un piuttosto strabiliante, sconcertante, stordente romanzo la cui protagonista è Anna Frank. In pratica c'è una scrittrice che si chiama Sharon Dogar, che si è immaginato che cosa veramente Anna Frank abbia fatto durante quei famosi mesi in cui si nascondeva, no, nel palazzo di Rotterdam, l'annex 263 a Prinsengracht, dove poi venne scoperta dai nazisti e spedita in campo di concentramento. La drammatizzazione è a tinte forti, c'è una storia d'amore con un ragazzino, c'è tutto ciò che non c'era, magari si poteva anche immaginare leggendo il diario di Anna Frank. C'è la critica britannica che sta sbranando questo libro, ci sono poi i curatori del museo di Anna Frank e delle varie fondazioni che sono partite dalla controffensiva, però c'è anche una difesa della scrittrice stessa e di quelli come lei che ormai apertamente, no, c'è un genere che si chiama mashup, prendere personaggi veri e lavorarci sopra, riusarli, immaginarli in senso narrativo e fantasioso. E c'è chi dice: ma perché no? Perché proprio Anna Frank deve essere intoccabile. Forse poi, a ben pensarci, non c'è tutto questo torto, no? Forse la santità è altrove. Comunque, come vi dicevo, questi sono i titoli, Glenn Beck da una parte e questa Sharon Dogar dall'altra, che stanno facendo un po', no, rovesciare gli occhi ai critici di qua e di là dell'oceano. In the past few days I've begun to atone for my private failings with my wife Soda, my children, and my entire family. Un momento che abbiamo più volte celebrato, anche perché a modo suo, nella sua tragicità, ci divertiva qui a Radio 24, le dimissioni di Elliot Spitzer, astro nascente della politica americana, caduto poi in una disgrazia micidiale perché metteva le corna alla moglie, ne faceva tutti i colori, affittava i servizi di prostitute pagandoli con i soldi del governo dello Stato di New York. Insomma, un disastro ambulante. Lo citiamo perché conferma un vecchio adagio della narrativa, della narratività all'americana: sei fregato, sei finito come politico, beh, aspetta il tempo giusto e poi riciclati come comunicatore. Esattamente quello che fa Elliot Spitzer. È stato appena assunto con un contratto dorato da CNN, scriverà articoli e farà anche conduzione televisiva in un programma a quattro mani. Infatti viene messo in un mini team insieme a un premio Pulitzer che si chiama Kathleen Parker, che è una giornalista di impronta conservatrice. Lui farà il progressista, lei la conservatrice, faranno finta un po' di litigare, e se la politica è passata c'è sempre la TV. Except because I'm a fool, I'm simple as a beat, as a melody in C, but it don't matter. There are more wishes than stars. Anni 10, suoni. Get it lost in the blindness. potrebbe darsi che già da qualche minuto, ovvero dalla fine della parte precedente, quella dedicata alle parole di anni 10, vi stiate magari un po' scervellando, cioè almeno sta voce qui l'ho già sentita, dove l'ho sentita, che cosa mi ricorda, sembra però proprio non è, bene, avete perfettamente ragione, sembra ma proprio non è, perché è la voce di un figlio che naturalmente ricorda non poco la voce di un padre, nella fattispecie il padre in questo caso è Paul Simon, uno dei musicisti più famosi del pop internazionale, e questo è il suo bambino, per modo di dire, perché ha 38 primavere, si chiama Harper Simon, si chiama Harper Simon perché Harper è il cognome della prima moglie di Paul Simon, da cui lui ha preso il nome, insomma il nome dal cognome della madre, cose che solo gli americani possono aver voglia di fare, ma che sta finalmente facendo partire, anche se in deciso ritardo, una carriera solista che sembra improntata a notevole gradevolezza, perché il talento c'è, la voce soprattutto c'è, perché poi somiglia tantissimo a quella di suo padre, soprattutto quando era un po' più giovane, un po' meno rotta dagli anni, e anche la capacità di contraddistinguersi in senso musicale con questo strano mix, strana contaminazione che ha voluto mettere in scena con musicisti country di Nashville, sembra piuttosto gradevole. Infatti è stato ben accolto il disco di debutto di Harper Simon, che non è uno che ci prova da adesso, ci prova da tanto, ma l'ha fatto come molti figli d'arte in modo un po' disordinato e, se vogliamo, anche un po' nevrotico, perché parliamoci chiaro, non è facile essere i figli di Paul Simon e decidere di fare i musicisti. Io gli avrei consigliato di fare il cuoco oppure il calciatore, perché poi c'è sempre, no, come dire, il totem di papà lì che ti guarda e magari alza pure il sopracciglio oppure ti dà il temibile consiglio e tutto ciò che ne segue. Lui comunque per un po' ha bazzicato nell'ambiente musicale così multicolore, multiforme di papà, poi è andato a Londra, ha fatto grande amicizia, pensate un po' anche, come dire, la situazione particolare che si deve essere creata, con un altro figlio d'arte, ovvero Sean Lennon, l'ultimo figlio di John Lennon. I due figli d'arte hanno provato a collaborare, ma poi era un po' un mostro quello che nasceva da questa unione, no? Lennon, troppa roba ma anche troppo poco, troppi rimandi dentro e forse troppe poche cose al di fuori di questo contenuto musicale. Adesso si è messo in proprio, il suo disco l'ha fatto, porta il suo nome, ripeto, è molto gradevole, soprattutto naturalmente se nel tempo avete seguito le gesta di papà, e io ve lo faccio sentire ancora. Harper Simon, questo si chiama The Audit. Dreams, impossible dreams, those moving pictures from scripts that are scriptures to those who believe in those magazines. You think they so, and sometimes we questa quindi è la maniera, la dolcezza, l'approccio sicuramente invitante di Harper Simon, che entra a far parte tardivamente del lato canterino di famiglia, ma si propone come un nome in più. Ce ne sono tanti di figli d'arte. C'è per esempio qualche tempo fa uscì un disco del figlio di James Taylor, che si chiama Ben Taylor, altrettanto valido. C'è sempre un po' questo dualismo, no? Ovvero una specie di inevitabile somiglianza, risonanza con quello che fa papà, e poi il tentativo di essere un po' diversi, magari di instradarsi in un'altra direzione. E c'è anche un vago imbarazzo da ascoltatori o da fan a seguire questi personaggi, però i prodotti sono, come in questo caso, assolutamente dignitosi. Un altro grande nome della musica americana a fianco, se non proprio alla stessa altezza della statura di Paul Simon, è quello di Tom Petty, che abbiamo scoperto che non ha pensato in questo mondo ormai di cariatidi, che è il mondo del rock, no? Perché non se ne vanno mai, fanno dischi fino a dopo la pensione, quindi hanno ormai 60, 70, 80 anni. Abbiamo scoperto che Tom Petty non ne ha ancora 60, ne ha 59 e mezzo. A ottobre diventa un biondo capellone sessantenne, resta uno dei grandi artisti positivi della canzone elettrica americana, insieme ai suoi al sound dei suoi inconfondibili Heartbreakers, è tornato con un nuovo disco, ne ha fatto già uno l'anno scorso, quindi ha ripreso una produzione di apprezzabile continuità, dopo che per qualche anno si era dedicato, come capita a questi grandi rocker, a progetti speciali, no? Faceva super gruppi, super band, collaborazioni, duetti, ha fatto i Traveling Wilburys, vi ricordate forse, con George Harrison, pace all'anima sua, Roy Orbison, pace all'anima sua, e Bob Dylan, che invece per fortuna ancora è tra di noi. Era stata un'avventura così divertente fra questi quattro grandi musicisti. Adesso comunque torna con i suoi Mike Campbell, Ben Montench, quelli che gli hanno sempre garantito quel suono che è al tempo stesso americanamente stereotipato, però particolare. È un suono che più americano di così non si può, però ha una sua impronta e anche quella positività, appunto, che fa parte del personaggio Tom Petty. L'album con cui si è ripresentato si chiama Mojo. Il brano che sentiamo, standard ma potente, è questo Jefferson Jericho Blues. Much more than our hearts could explain. On our first flash of freedom. E così dunque si apre il nuovo disco di Tom Petty con questo blues, si evolve poi in una dozzina di altri pezzi, è un ritorno gradito, lo mettiamo insieme alla citazione di Harper Simon che abbiamo fatto in apertura, però poi siamo obbligati a raccontarvi cosa dicono i media specializzati americani, tipo Variety. Dicono: ragazzi, qui il rock è invecchiato, il pop puzza di stantio, di polvere, se non ci aiutano i personaggi nuovi sono dolori, e c'è una precisa invocazione, anche due obiettivi precisi che si chiamano, pensate un po' che tipetti, Lady Gaga e Eminem. In pratica Variety, la Bibbia dello spettacolo americano, dice: occhio a quello che fanno, alle mosse che faranno nei prossimi mesi. Eminem ha appena pubblicato, abbiamo parlato la settimana scorsa, un nuovo album. Occhio a quello che faranno Lady Gaga e Eminem, perché buona parte delle sorti del mercato discografico americano passa attraverso la reazione del pubblico alle produzioni di questi due artisti, che hanno in questo momento davvero un valore di catalizzatori. Di Eminem abbiamo detto, di Lady Gaga c'è anche su di lei una cover su Rolling Stone che vi segnaliamo, ci spiega come la vita sia arte, leggetevela perché è molto divertente. Ci sono anche delle foto appena pubblicate sui tabloid americani e inglesi che ce la fanno vedere mentre all'aeroporto, scendendo dall'aereo con degli zatteroni enormi, inciampa e cade, fa un capitombolo pazzesco. Questo mi sembra un po' parte del personaggio Lady Gaga, c'è anche questa sua goffaggine che la può rendere un po' umana. Vedremo se davvero Eminem e Lady Gaga a braccetto riusciranno a risollevare le sorti dello showbiz. Anni 10. Figure. E E a proposito di icone, no? Di icone del pop, della cultura popolare condivisa di questi anni 10, ma anche della fine del Novecento, cosa non può essere degnamente evocato se non quel celebre pezzo unico, il concerto sul tetto della Apple, no? I Beatles ormai al tramonto, al canto del cigno, che si ritrovarono, come al solito, con un po' di pioggia e un freddo cane sul tetto della Apple per suonare uno show che paralizzò Londra, ma paralizzò soprattutto i cuori dei fans di là, di qua, della Manica, dell'Atlantico, di quello che volete. Il concerto sul tetto, no? È diventato una specie di sottogenere, anche se poco frequentato perché è molto pericoloso. I vigili si arrabbiano, come dire, i sindaci si storcono se qualcuno lo fa, e invece l'hanno rifatto ed è stato molto divertente. Jay-Z and Eminem just can't be stopped. They performed on the rooftop of the Ed Sullivan Theater when the city nixed a surprise concert on the famous marquee. Chi lo poteva fare se non un altro re? I Beatles erano i re, gli imperatori d'Inghilterra e del mondo. In questo momento New York ha un re, si chiama Jay-Z, è un rapper convertito a molte altre cose e comunque ha veramente una posizione preminente nello show business della grande mela. Ha chiamato un altro che, come vedete, ogni 3x2 ricorre anche nel nostro programma di consumi culturali, che si chiama Eminem, e i due associati quindi sono una vera corazzata, talmente corazzata che anche se il sindaco Bloomberg ha detto no, niente concerti sul tetto, loro l'hanno fatto naturalmente lo stesso. Avevano il problema di trovare un tetto, ma il tetto l'hanno trovato facilmente perché gliel'ha offerto uno che ha un certo naso per gli eventi, che si chiama David Letterman, che fa il suo spettacolo proprio nel centro di Manhattan, in un teatro, in uno studio nel centro di Manhattan, e gli ha detto: prego, il tetto è vostro, accomodatevi, e l'evento è andato in scena. Così, dopo quanti saranno, 30, una quarantina d'anni dal concerto dei Beatles, c'è qualcos'altro da mettere in colonna, no? In questa subcultura che si chiama Suoniamo dal tetto. A noi ci sono piaciute, a proposito di figure per gli anni 10, ci sono molto piaciute, tutta questa musica, sentiamo un po' questa musica. Questi sono i Phoenix, un gruppo di origine francese, sta avendo un grande successo oltreoceano in America, e che hanno fatto la colonna sonora per una regista che ama affidare le colonne sonore ai gruppi, no? Lo ha fatto con gli Air, che guarda caso pure quelli vengono dalle parti della Torre Eiffel, e in questo caso Sofia Coppola, di lei stiamo parlando, ha incaricato i Phoenix di fare le musiche per un film che, già dai trailer, che è tutto ciò che abbiamo visto, ma che vi invitiamo così ad assaggiare su internet, li trovate dappertutto, ci sembra un piccolo evento del cuore, no? Quelle cose, quelle corde che Sofia Coppola ormai ha ampiamente dimostrato sa toccare perfettamente. Non so se vi ricordate Le Vergini Suicide, Maria Antonietta, naturalmente Lost in Translation, il film che ha fatto sì che il Giappone fosse un po' più vicino alle nostre fantasie, ai nostri desideri. Qui il film si chiama Somewhere, ha delle cose che ci riguardano, perché è ambientato in buona parte in Italia, è ambientato tra l'Italia e Los Angeles. È la storia di un attore, di un divo, di un attore fico, un po' perduto, un po' cattivo, tutto ciò incarnato da Steven Dorff, e di una figlia che naturalmente lo riporterà sulla buona strada, per quanto poi è possibile riportare sulla buona strada uno è comunque un ragazzo cattivo, ma il duetto, l'incontro lo scontro tra i due è il cuore di questo Somewhere, con la caratteristica che lei è Elle Fanning, ovvero la sorellina piccola di Dakota Fanning, una famiglia che sta dando a Hollywood e al mondo ragazzine su cui sognare, occhio perché parliamo di ragazzine di 10 anni, 12 anni. Ma la vera star del film, e questo volevamo aggiungere, ed è un'altra, ci è particolarmente cara, poi un giorno vi racconteremo perché, e non è un attore o un'attrice, ma è un posto, è un albergo. Un albergo, un vecchio albergo di Los Angeles, che purtroppo non è più decadente come piaceva a noi, ma è stato rinnovato, è stato rifatto, si chiama Chateau Marmont, si trova sul Sunset Boulevard ed è la vera star del film. Vi posso raccontare, vi posso dire che già nel trailer se ne vede abbastanza per capire che troneggia, no? È il vero titano di questo film e forse anche della immaginazione di Sofia Coppola al riguardo. Vedremo tutto ciò quando uscirà Somewhere. This is the American way. They put 60 pianos across New York. I've only ever put 30 before, so the pianos are distributed. Allora, una breve segnalazione: se andate a New York, ma però se aspettate, secondo me arriva anche più vicino, per un fenomeno che sta diventando un po' virale, un po' una roba a metà fra l'happening, l'arte e l'evento collettivo. Si chiama Play Me I'm Yours ed è un gruppetto di artisti che si fanno chiamare Sing for Hope, cantare per la speranza, che crea questo happening spargendo dei pianoforti nelle grandi città. Per la precisione, 60 pianoforti seminati in giro per Manhattan e lasciati lì, naturalmente sorvegliati da telecamere nascoste, non perché la gente si fregasse, ma per vedere che succedeva. E cosa succede? Succede che a un certo punto la gente comincia a fermarsi, no? Invece di correre sempre al lavoro tenendo la tazza di caffè in mano come fanno gli americani, c'è quello che il pianoforte sa suonare o magari gli piace semplicemente strimpellarlo, si ferma, si siede e suona, e naturalmente che succede? Che gli altri si mettono a sentirlo e nasce l'interazione, nasce l'evento, nasce quel piccolo momento speciale che può rendere una giornata diversa dagli altri. È un evento, come vi dicevo, itinerante, Play Me I'm Yours, suonami, sono tu, è già stato in altre città d'America, c'è da scommettere che arriverà anche dalle parti nostre e ci sembra un'idea molto carina. Hey, Kutcher, I got your message. It's Larry King. Do I have to tell you who I am? Anyway, are you putting me on? A proposito, per concludere, a proposito di Viali del Tramonto, ce n'è uno nei media, nelle immagini, nelle figure che esploriamo in questa parte degli anni 10 dello show business americano che ci piace appuntare, raccontare, il Viale del Tramonto di Larry King, la superstar, no, del giornalismo americano, è in caduta libera, ha gli ascolti a picco ed ha ormai una specie di dibattito trasversale che lo circonda. Perché tutti vogliono la fine di Larry King, chissà perché, poi ce ne sarebbero altri secondo me prima di Larry King. Comunque ormai il dibattito su tanti siti, soprattutto su Atlantic Monthly, uno dei più rispettati magazine d'America, è partito con grande calore, dicono a Larry lascia prima che rovini la tua carriera, le tue interviste ormai fanno pena, sei lungo, sei noioso, non ti prepari, si vede che non te ne frega niente, ci sono già 1000 sostituti pronti a prendere il tuo posto, c'è il suo contratto che scade tra meno di un anno, io con il mio significativo contributo posso dire solo una cosa, ma insomma è bravino, lasciamolo finire, no? Meglio, no? Ma proprio con Larry King ve la dovete prendere, ma ce ne sono tanti. Allora, questi sono gli anni 10, cominciano ad avere colori estivi qui da Radio 24. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Antonella Migliacci, in regia Valerio Rocchetti. Abbiamo un profilo Facebook dove trovate i materiali necessari a risalire poi alle varie cose di cui vi ho parlato, che vi ho accennato. Questo è un intercettore di segnali, noi ve li rimandiamo, poi dovete lavorare da soli, ma magari non li avete notati. La pagina è anni 10 o anni 10 Radio 24. La mail per scriverci è anni10@radio24.it, l'appuntamento tra una settimana e l'augurio è di stare tutti benissimo.